l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. Mi scuso per la voce e un po' di tosse, già lo anticipo, ma sono giornate di influenza. Siamo qua con il nostro appuntamento settimanale con l'Europa che ci piace raccontare, l'Europa di cui le criticità, i problemi, insomma, vengono narrati, perché ci sono, non possiamo nasconderli, quotidianamente, con l'aggiornamento politico ed economico da Radio 24. Noi cerchiamo il sabato di dare anche altre prospettive, raccontare storie, umanizzare un po' questa Europa, diciamo così. Può sembrare presuntuoso, ma ci piace farlo. Un programma in collaborazione con Euronet, il network paneuropeo che con tante voci diverse, in tante lingue, cerca comunque di trovare una lingua comune, un parlare comune di questa Unione Europea. Un viaggio che potete fare con noi anche via Twitter, @FedericoTaddia, oppure su Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, con le pagine che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. 349-238-6666 per i vostri sms. Insomma, questi sono tutti i modi per interagire con noi. Si parte. Prima tappa, la Grecia. Passo una democrazia Ελλάδος. Με τις αποφάσεις τους πετούν βαριές ανησίδες στην εργατική τάξη. Καλά άνθρωποι! Ούτε εκλογές, ούτε συγκυβέρνηση στον δρόμο, λαέ, μπορείς να τους νικήσεις. Ούτε εκλογές, ούτε Sono rumori, sono suoni di protesta, sono rumori e suoni che ormai accompagnano da settimane, da mesi, quella che è la difficile situazione greca, una situazione dove anche l'Europa ha le sue colpe, ma l'Europa anche i suoi meriti. Si sta cercando di risollevare la situazione difficilissima, che però coinvolgerebbe poi tutto il resto dell'Unione. E questa notte un accordo, l'ennesimo accordo, altre restrizioni, ancora austerity, ancora il popolo greco che dice: noi non ce la possiamo fare, c'è coscienza, c'è voglia di uscire da questa crisi, ma non si vedono prospettive. Tantissime implicazioni anche qui politiche ed economiche. Noi anche qui invece vogliamo una voce, cercavamo una testimonianza che fosse significativa, perché si cerca comunque di riprendersi. Comunque c'è una classe media che non era abituata a vivere in questa sofferenza e sta cercando appunto in tutti i modi di risollevarsi. E si chiama Stepan Matosian, è un commerciante, è una persona quindi che cerca di avere un lavoro, che cerca di far girare questa disastrata economia. Ciao Stepan, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Vorrei scusarmi anche io della mia voce, perché anche io sono con un'influenza, diciamo, abbastanza notevole. Saluto i vostri ascoltatori. Cos'è che le volevo dire? Tu, Stepan, vivi nella Grecia del nord, se non erro, e ci vuoi raccontare un po' la tua storia, che credo sia emblematica, comunque una storia simile a tante altre. La mia storia è che dopo aver finito gli studi in Italia sono venuto in Grecia e mi sono messo a lavorare nella azienda, diciamo, familiare. In questo momento mi trovo con 5 negozi nel nord Italia, nel nord Grecia, scusa. E sto vivendo anch'io la crisi in un modo, diciamo, abbastanza non piacevole, insomma. Certo. L'unica cosa che può fare più, come dire, per esempio, volevo dire che i nostri impiegati sono da 75, sono ridotti a 43 in 3 anni. Questo può far vedere subito come certo sta vivendo la Grecia nel settore privato tutta questa storia che sta andando avanti quasi dalla fine del 2008. Certo, ecco, ma per un piccolo un medio commerciante come te, quindi una persona comunque che si mette in gioco, cosa significa cercare di sopravvivere giorno per giorno? Perché immagino sentirai su di te anche la responsabilità dei tuoi dipendenti, delle loro famiglie. Infatti. Significa che tutti i giorni stiamo seguendo come vanno gli incassi, stiamo tutti i giorni prendendola con le banche, perché poi 3 anni fa il costo del denaro in Grecia era meno del 3%, invece adesso i tassi sono arrivati al 10% e tutte le banche stanno, per esempio, usando la scusa che anche loro comprano i soldi molto più caro da allora, e allora bisogna insomma chiedere più interessi da noi. Invece noi siamo obbligati a mandare via della gente per diminuire, diciamo, le spese, abbassare gli affitti nei negozi che affittiamo, cioè praticamente stiamo facendo tutto quello che si può per tenersi in piedi, per andare avanti questa storia, in quanto vediamo come va a finire, insomma. Con l'altra Europa siamo in Grecia, insieme a Stepan Motesian, un commerciante, ci sta raccontando la sua storia per avere un punto di vista su questa difficilissima situazione in Grecia. Stepan, questa notte, insomma, forse un accordo, la votazione sarà domani, quindi comunque la politica è ancora in movimento. Tu però hai un contatto quotidiano poi con quello che è il pensiero dei tuoi clienti, quindi dei cittadini. Qual è questo pensiero comune? C'è rassegnazione? C'è speranza, c'è fiducia nella politica, o è veramente un tentare di sopravvivere giorno per giorno? Fiducia nella politica non ce n'è più in Grecia. Il personale politico è fallito nel senso vero e proprio. C'è fiducia nel Papadimos, nel senso che, siccome è un tecnico dell'economia, questa volta si possa, insomma, portare avanti. Il popolo è logico che è un po' arrabbiato, nel senso che sta perdendo da 2 anni in qua la maggior parte dei suoi soldi, non mi ricordo adesso la parola, e non vede, per esempio, il come va a finire. Ogni 6 mesi nuovi sacrifici, nuova austerity, e senza vedere, diciamo, una luce nel fondo del tunnel. Per esempio, una cosa che bisognerebbe vedere o sentire era parlare anche un po' di sviluppo. Questa volta si sta parlando, dicendo che verranno 130 miliardi, la maggior parte dei quali sarà data per i prestiti che ha lo Stato, ma comunque cresceranno dei soldi che si potrà investire, diciamo, sullo sviluppo del paese. Certo, insomma, questo è fondamentale. C'è da vedere, insomma. Stepano, un'ultima domanda. I tuoi sono negozi di arredamento, c'è un oggetto che comunque anche in tempo di crisi si continua a vendere? No, non sono di arredamento, sono di abbigliamento. Di abbigliamento, scusa. Allora è anche più facile, nel senso che tipologia di negozi hai? C'è abbigliamento alla moda, abbigliamento molto costoso? Sì, di tutti i tipi, insomma. Si direbbe che sono anche di costosi, con brands di alti prezzi, e anche quelli che sono più value for money, diciamo. Ma comunque, insomma, tutto quello, sì, hanno risentito anche i nostri negozi, tanto ho detto prima che abbiamo dovuto licenziare della gente o non ci sostituire quelli che sono andati in pensione, insomma. Comunque tutta la Grecia sta vivendo un momento difficile, tutti i greci devono ormai vivere sotto molto più basso, diciamo, spendendo molto meno in rapporto di quello che si faceva 3 anni fa, insomma, viaggiare meno, vestirsi meno, non comprare le macchine nuove nel ritmo che si faceva prima, è tutto quello che, insomma, porta a una nuova povertà. La gente, insomma, è impoverita, no? E porta anche a sognare meno, che questo poi porta a una depressione, infatti, non solo economica, ma anche sociale. Infatti, sognare meno è la cosa peggiore che può succedere a una popolazione, insomma. E quello che sta rimprovando e dicendo tutti, quello stiamo pensando, che praticamente il nostro leader prima, quel Papandreou, quando era venuto doveva chiedere più tempo, diciamo, no? Perché l'Europa, cioè, non è fuori, diciamo, anche l'Europa ha le sue responsabilità in tutto quello che è successo, assolutamente, che è arrivata, diciamo, la Grecia, no? Assolutamente. Ecco, per cui ci doveva dare più tempo, per non si può gli sbagli e gli errori di 30 anni metterli a posto in 3 anni, insomma, certo. se no mandi una popolazione intera alla depressione. Stepan, grazie davvero per la tua testimonianza, in bocca al lupo per te e per tutti i tuoi dipendenti. Ciao e buon sabato. Grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Europost-it. A Vienna per la difesa dei diritti fondamentali. Il tuo sogno è lavorare per la tutela dei diritti umani? L'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, con sede a Vienna, offre tirocini retribuiti per un periodo di 6 mesi a giovani laureati che vogliono farsi un'esperienza lavorativa nel settore dei diritti fondamentali a livello europeo. Per partecipare è fondamentale avere una laurea triennale e conoscere almeno 2 lingue comunitarie. Ma sentite qui! I tirocinanti riceveranno una sovvenzione mensile di 1.000 euro ed è previsto un rimborso delle spese di viaggio. Fate presto! Avete tempo fino al 17 febbraio per provare a partecipare agli stage che vanno da luglio a dicembre. Per maggiori informazioni visitate il sito fra.europa.eu. In bocca al lupo! Poplatí politikov a sudcov a tak ďalej, ale aj mimo vlaky. Všade tam, kde vyskytujú mladých, šikovných ľudí, ktorí raz mohli už chodiť alebo konkurovať a neviem čo, tej skupiny, tam šupnú peniaze, aby, ja ani nehovorím, že kúpi diplomy, ale nejakým spôsobom zaistiť, že ak ten názor bude verejný, tak to bude... La voce che state ascoltando è quella di Tom Nicholson, forse una voce, forse un nome che non vi dicono più di tanto, ma è un personaggio chiave di una stranissima vicenda che sta animando la Slovacchia. Insomma, siamo in questa Repubblica dove, insomma, manca un governo, c'è una campagna elettorale ferocissima e c'è questo dossier che ha portato scandalo perché ha evidenziato uno stato di corruzione clamoroso. Per fotografare la situazione, soprattutto per capire cosa sta accadendo in Slovacchia in queste settimane, abbiamo invitato un collega, un giornalista, scrive per varie testate ceche e slovacche, si definisce uno degli ultimi cecoslovacchi perché è genitore ceco e uno slovacco. Diamo il benvenuto qui all'Altra Europa, Josef Kaspar. Ciao Josef, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Non credo sia facile fotografare la situazione slovacca, però abbiamo bisogno del tuo aiuto, ti abbiamo chiamato proprio per questo. Cosa sta accadendo? Diciamo, cerchiamo di riassumere brevemente la cosa. È successo che in un appartamento non ben identificato della capitale slovacca Bratislava si incontravano, si dice, i rappresentanti di un grande gruppo di investimento slovacco, ma siccome oggi c'è anche del capitale ceco che si chiama Penta, dove questi rappresentanti si incontravano con altri rappresentanti della politica slovacca e dove in qualche modo si trattavano le varie condizioni relative all'ingente programma di privatizzazioni che era in corso in Slovacchia, diciamo negli anni 2006-2007, diciamo fino al 2010. I partecipanti a quanto pare non sapevano che questi incontri erano in qualche modo registrati dal servizio di informazioni slovacco. Sì. E da questo sembrerebbe uscire fuori che praticamente altri rappresentanti della politica slovacca in qualche modo concordavano con questi signori della Penta una corruzione di altissimo livello. Ora, la situazione non è molto chiara perché qualcuno sostiene che queste registrazioni sono state manipolate, gli altri dicono che naturalmente sono vere. La società Penta si difende e, diciamo, siccome in Slovacchia, appunto come tu avevi detto, è ormai senza governo dall'autunno dell'anno scorso, e il 18 febbraio comincia ufficialmente la campagna elettorale, c'è un clima abbastanza teso, perché la popolazione, che naturalmente anche lì è soggetta a varie limitazioni a causa della crisi economica che ha colpito anche questo paese, insomma, è stanca e dice: noi dobbiamo portare sacrifici quando la nostra rappresentanza politica è corrotta. Mm-hmm. E tra l'altro anche la situazione economica in Slovacchia, insomma, segue le ripercussioni di tutta la crisi europea, quindi crisi che ha colpito anche gli slovacchi, con i pensionati, per esempio, sono infuriati perché ci sono state tantissime restrizioni proprio nei loro confronti. La Slovacchia, tra l'altro, che è entrata nell'euro con sforzi enormi e anche una punta di orgoglio, insomma, lo si voleva, e il popolo voleva sentirsi parte di questa Unione Europea. Com'è attualmente invece l'affezione nei confronti dell'Europa? In effetti è giusto, perché diciamo la Slovacchia, quando praticamente era iniziato il processo, diciamo, di integrazione dei paesi ex comunisti nell'Unione Europea, è partita, diciamo, con un notevole handicap rispetto ai cechi, rispetto agli ungheresi, ai polacchi. Poi la situazione in qualche modo si è rovesciata, perché i cechi, i polacchi ora non hanno voluto entrare nell'euro, gli ungheresi ora come ora non sono in grado, e gli slovacchi invece, a costo di grandissimi sacrifici, sono riusciti ad entrare nella zona euro. Soltanto che adesso il risveglio è stato piuttosto brutale, perché per esempio, e questo è stato il motivo, diciamo, della caduta del governo slovacco, quando nell'autunno scorso si chiedeva a tutti i paesi dell'Eurozona di portare il proprio contributo in favore della Grecia, è successo che per le strade delle città slovacche si gridava: io, pensionato che prendo 250 euro al mese, devo sostenere un pensionato greco che in qualche modo guadagna, prende 4-5 volte quello che prendo io, 1.000-1.250 euro. Quindi ora come ora anche in Slovacchia c'è una tendenza, verso il raffreddamento nei confronti dell'Unione Europea, anche della zona euro, e tutti sperano comunque che questa crisi passi. Va detto però anche questo, che a differenza di altri paesi, qui parlo anche dell'Italia, l'ingresso nell'euro in Slovacchia non ha comportato un enorme aumento di prezzi come qui, loro hanno in qualche modo approfittato dell'esperienza avuta da altri paesi e sono riusciti a controllare i prezzi abbastanza bene. Bisogna anche ricordare questo, che la zona occidentale della Slovacchia, con la capitale Bratislava, è una zona molto florida. Bisogna dire anche questo, che per esempio il costo degli appartamenti a Bratislava è superiore a quello di Vienna. Ho capito. Però Josef, come mai che si sa così poco della Slovacchia? È comunque una nazione piccolissima, è vero, però comunque è giovane, è viva, è bella, però trova pochissimo spazio sui media. Questo non lo so, forse sono anche loro che non sono in grado in qualche modo di vendersi, tant'è vero che questo è stato anche uno dei motivi, del divorzio dai cechi, perché gli slovacchi si lamentavano sempre che quando si parla della Cecoslovacchia si parla solo di Praga o dei cechi e non mai degli slovacchi. Comunque devo dire anche questo, gli slovacchi, anche se se ne parla poco, gli va riconosciuta una cosa: in questi 20 anni di indipendenza hanno fatto dal punto di vista economico dei passi in avanti notevoli, questo va ricordato, e gente magari che parla poco ma lavora abbastanza. Ok, beh, insomma, quindi magari ci diamo appuntamento tra qualche settimana qui all'Altra Europa, perché andiamo a scoprirla insieme meglio questa Slovacchia, ok Josef? D'accordo. Grazie a te, ciao, buon sabato, ciao. Arrivederci. Europost-it. Eureka. Piccoli scienziati europei in concorso a Bratislava. Si chiama EUCIS, che sta per Concorso Europeo per Giovani Scienziati, ed è promosso da Commissione Europea, Consiglio d'Europa e Parlamento Europeo. L'edizione 2012 si terrà a Bratislava e rappresenterà la vetrina delle migliori scoperte scientifiche fatte da ragazzi e ragazze tra i 14 e i 21 anni. Ma per accedere alla fase europea, i giovani Einstein devono superare una selezione nazionale dal titolo I Giovani e le Scienze, organizzata dalla Federazione delle Associazioni lezioni scientifiche e tecniche è prevista dal 14 al 16 aprile a Milano. Sono accettati progetti singoli o di gruppi di massimo 3 componenti. Per partecipare è fondamentale inviare il proprio lavoro entro il 16 febbraio. Trovate tutte le informazioni su fast.me.it/giovanienscienze2012.htm. Demonstrations got boring. Well, it was obvious that the government was ignoring us. It's hard to drag yourself through empty streets on an empty. Vi ricordo che tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, anche le coordinate per i nostri post-it, per gli eventi, le iniziative, i concorsi, li potete trovare sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, @FedericoTaddia. Parliamo di disoccupazione in Europa e questo è il tema scelto da Euronet questa settimana, focus comune. Noi cerchiamo di ribaltarlo perché crediamo che sia fondamentale denunciare quella che è una situazione, quindi una disoccupazione sempre più crescente all'interno dell'Unione, e però bisogna anche tentare di dare delle visioni positive, delle prospettive. E per farlo abbiamo invitato il dottore Stefano Scarpetta, che è vice direttore della direzione lavoro dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Buongiorno Scarpetta, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a lei. Ci sono margini per dare anche prospettive positive, vero, nel campo del lavoro, soprattutto magari partendo proprio dai giovani? Ma sì, sicuramente la situazione sul mercato del lavoro in generale e in particolare per i giovani si è deteriorata in molti paesi dell'OCSE, ma esistono anche forti differenze. Abbiamo alcuni paesi dell'area europea come la Germania, ma anche l'Olanda, in cui la disoccupazione giovanile, la disoccupazione in generale, la disoccupazione giovanile è aumentata poco, e in Germania, così come in Olanda, nel periodo di ripresa economica la disoccupazione in generale e anche quella giovanile è diminuita, siamo a livelli al di sotto del 10%. Dall'altro lato, come è stato sovente ricordato sia in Italia ma anche in altri paesi, la disoccupazione giovanile è aumentata molto. In Italia siamo oltre il 30%, in Spagna purtroppo ci stiamo avvicinando a una soglia del 50% e in Europa in generale siamo oltre il 20%. Quello che abbiamo visto è che negli ultimi mesi la disoccupazione in generale, anche quella giovanile, è diminuita anche negli Stati Uniti. Okay. Grazie a una forte ripresa della creazione di posti di lavoro in quel paese. Mm-hmm. La stessa cosa è avvenuta in Germania e in altri paesi, non purtroppo in Italia, così come in quei paesi in cui la disoccupazione è aumentata maggiormente. Ecco, dal suo osservatorio, qual è la cosa che più la preoccupa? Nel senso, mancano i posti di lavoro fondamentalmente o manca una formazione adeguata per i posti di lavoro che ci sono o sussistono entrambe le cose? Ma direi che nel breve periodo il problema è la mancanza di posti di lavoro, cioè la domanda di lavoro è rimasta abbastanza limitata, è limitata, e questo a causa di diversi fattori, prospettive di crescita economica molto limitate in Europa e anche in Italia, ma anche direi una forte incertezza, per cui gli imprenditori, anche quelli che vedono delle prospettive di crescita della loro attività, sono resti per il momento ad aumentare la forza lavoro della loro impresa, appunto perché gli scenari di breve periodo sono comunque molto incerti. Detto questo, esistono anche problemi più strutturali per quanto riguarda la disoccupazione in generale e in particolare la disoccupazione giovanile. Un dato che mi preoccupa molto nel caso italiano, ma non è soltanto la situazione italiana, è quello che ha un tasso di disoccupazione giovanile elevato, si affianca anche a un tasso di inattività che in Italia è particolarmente elevato. Un indicatore che è stato sovente utilizzato e ricordato in Italia in questi periodi è quello dell'insieme dei giovani che sono o disoccupati o che sono inattivi, cioè non sono esclusi dal mercato del lavoro e dal processo formativo. In Italia siamo a circa il 20% dei giovani tra 15 e 24 anni, quindi un quinto della popolazione dei giovani è o alla ricerca di un posto di lavoro, ma almeno in contatto con il mercato del lavoro, o addirittura escluso dal mercato del lavoro e dal processo formativo. Questo per me è il problema più serio, più grave, perché purtroppo sappiamo anche dalle esperienze pregresse di generazioni che sono entrate sul mercato del lavoro in momenti difficili, che hanno avuto difficoltà a trovare un lavoro, che si è verificato quello che certe volte viene chiamato l'effetto cicatrice, cioè anche 10-20 anni dopo queste generazioni di giovani, non più giovani, avevano ancora difficoltà di avere accesso al lavoro e anche salari più bassi rispetto ad altri individui con le stesse caratteristiche, ma che hanno avuto la fortuna di entrare sul mercato del lavoro in un momento migliore. Certo, ma perché è comunque un potenziale comunque di energie, di entusiasmo, di risorse che non viene comunque utilizzato, rimane lì congelato, inespresso, inutilizzato. Assolutamente, sono delle potenzialità di capitale umano che sono inutilizzate o soltanto parzialmente utilizzate. L'altro fenomeno che preoccupa in Italia è anche che per molti giovani l'accesso al mercato del lavoro è un accesso attraverso forme contrattuali atipiche, che in alcuni casi nascondono forme di precariato e che soprattutto non sono dei veri trampolini di lancio verso delle opportunità migliori, ma rischiano di diventare un po' delle situazioni persistenti di precariato, di disoccupazione, e che quindi non permettono neanche ai giovani di acquisire quelle competenze sul mercato del lavoro attraverso l'attività lavorativa, che sono fondamentali poi per avere dei processi di carriera verso opportunità di lavoro più stabili e con migliori prospettive. Esistono ricette? Se lei si trovasse ora di fronte ad uno di questi giovani, qual è il consiglio, il primo consiglio che spenderebbe a suo favore? Ma la cosa da sottolineare è che ovviamente la popolazione giovanile è molto diversificata, ci sono giovani altamente qualificati in cui anche l'assistenza nella ricerca del lavoro, che possa essere affiancata anche da un sussidio, ma che sia condizionata a una ricerca attiva del lavoro, può essere sufficiente per avviarli verso opportunità di lavoro. Ci sono altri giovani che sono usciti precocemente dal sistema formativo, per cui invece offrire opportunità di formazione in questo momento è fondamentale per migliorare per il loro capitale umano e per quindi dargli opportunità di avere accesso a opportunità di lavoro. Quindi dipende dalla diverse categorie e caratteristiche dei giovani, e bisogna soprattutto identificare degli strumenti che siano adeguati. La formazione, secondo me, è un elemento fondamentale, forme di apprendistato e quindi dare opportunità di transizione dalla scuola al lavoro con un coinvolgimento forte anche degli imprenditori mi sembra un altro elemento importante. In Italia c'è stata una riforma dell'apprendistato, è importante che questa riforma venga resa operativa e che diventi veramente uno strumento per la transizione scuola-lavoro, che in Italia per il momento manca. Grazie davvero dottor Scarpetta, ricordiamo vice direttore alla direzione lavoro dell'Ocse, e in bocca al lupo per il suo lavoro, tutto quello del suo team. Grazie, alla prossima, buon sabato. Grazie a lei, arrivederci. Europostit. Mini Erasmus con AEGEE. Arriva la Summer University. Con circa 13.000 soci e 200 sedi in tutta Europa, da Lisbona a Mosca, da Helsinki a Yerevan, AEGEE è la più grande associazione studentesca interdisciplinare d'Europa e offre agli studenti universitari una grandissima opportunità. Si chiama Summer University e permette ai partecipanti di trascorrere 2 settimane in un altro paese europeo, guidati da ragazzi del posto e in compagnia di studenti di tutta Europa. È un periodo breve ma intenso, vissuto in una dimensione locale e globale allo stesso tempo. Il programma è ricchissimo e include workshop in aula, visite dei musei, giornate di trekking e immancabili feste Erasmus. La domanda si può presentare sul sito aege.org/su tra il 1 marzo e il 24 aprile. La lista dei selezionati verrà pubblicata sempre sul sito entro il 10 maggio. Per informazioni su candidature e destinazioni visitate il sito aege.org. E continuiamo a parlare di Europa, un'Europa che è non solo metaforicamente sulla rampa di lancio in queste ore, perché c'è un appuntamento importantissimo, un appuntamento aerospaziale nelle prossime ore, dovrebbe essere lunedì mattina attorno alle 11, previsione del tempo buone, permettendo il lancio di Vega, il vettore spaziale europeo, un appuntamento importante non solo per gli appassionati di tecnologia, vero Gigi Donelli? Buongiorno Federico, direi proprio di no, e come hai detto intorno alle 11 hai preso la prudenza che ormai è propria di qualsiasi giornalista che segue l'aerospaziale, appunto. Gigi Donelli, appunto, voce di Radio 24, uno dei massimi esperti, tra le tue mille passioni c'è anche quello da sempre, cioè tu da Goldrick in poi tutto ciò che è aerospaziale comunque ti ha incuriosito, vero? Questo è uno dei tuoi tanti pallini. Hai citato appunto uno dei pilastri di questa cultura, quindi non posso negarlo, anche perché come hai detto in realtà quello che credo e penso da anni con alcuni colleghi, che l'aerospaziale vada ben oltre il razzo stesso. Oggi tu parlavi di lavoro, Quando sento parlare di lavoro europeo e penso a Vega, penso a un progetto che è costato e costa le casse dello Stato europeo, e questo mi riferisco appunto agli Stati dell'Unione, qualcosa come 800 milioni di euro per 10 anni, e che ha formato generazioni di ingegneri, di specialisti che sono davvero un bene molto prezioso per il mercato del lavoro europeo. Un razzo tecnologicamente avanzato, forse il più avanzato fino ad ora tra quelli costruiti, di dimensioni anche altissimo. Questo razzo, qual è il valore? Cosa va a fare lassù nello spazio? Perché c'è così tanta attesa per questo decollo? Allora, Vega pensa che viene considerato, viene definito il lanciatore leggero europeo. Leggero forse perché pesa solamente 148 tonnellate al lancio ed è alto, tra virgolette, solo 30 metri. Certo, rispetto ai 50 del fratello maggiore Ariane 5 è relativamente piccolo. Dunque, questo razzo Vega completa di fatto una gamma, la gamma europea dell'accesso allo spazio, che è composta appunto da Ariane 5, si è arricchita negli anni dalla russa Soyuz, che è entrata a far parte della famiglia europea, e Vega rappresenta la modernità su due fronti. Da un lato è un lanciatore leggero, nel senso che porta dei carichi in orbita di circa 1,5 tonnellate, ma dobbiamo assolutamente tener conto del fatto che nel corso degli ultimi 20 anni la miniaturizzazione dei sistemi di fatto ha portato a un dimagrimento continuo dei satelliti, quindi quello di cui avevamo bisogno per magari fare delle operazioni in orbita 15 anni fa non è più lo stesso di oggi. Basta guardare i nostri computer, insomma. Certo, è tutto... Il sistema intero di Vega viene gestito da un PC che è grosso non come un laptop di quelli che conosciamo oggi, ma circa la metà, mentre i primi computer a bordo dei sistemi astronautici erano di fatto degli armadi. Gigi, è caduto Gigi, lo stiamo recuperando al volo. Intanto vi ricordo radio24.it, il nostro sito da cui potrete riascoltare la puntata da lunedì e ritrovare anche tutti i link che abbiamo toccato, cosa che potete fare anche sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter. Ecco qua Gigi Donelli. Gigi, stavo dicendo appunto, ne parlerai, seguirai il decollo, insomma, il lancio di Vega. Si parla molto italiano anche all'interno di questo razzo, però nel cuore proprio costruito. Sì, assolutamente. Come sapete, insomma, credo sappiate, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, è una, insieme appunto, di fatto è un'Unione Europea dei lanciatori spaziali, di paesi, partecipano 17 nazioni, e a seconda dei progetti ci sono delle presenze industriali più o meno forti. Beh, in questo caso senz'altro l'80% del finanziamento, della progettazione ingegneristica, della costruzione materiale del razzo, il razzo Vega di fatto viene costruito per l'80% a Colleferro negli stabilimenti Avio, e da lì ha preso il mare, ha lasciato dal porto di Livorno per raggiungere il Sud America, dove in queste ore è in attesa della base europea di Kourou per essere lanciato. Quindi assolutamente sì, questo è anche il modo in cui i meccanismi europei sostengono e finanziano delle industrie che devono essere per definizione multinazionali, perché i costi coinvolti sono molto importanti. Nessun singolo paese, a parte forse le grandi potenze appunto, potrebbe sostenere da solo degli sviluppi che, come ho detto, è importante ricordarlo, richiedono anni, prospettive di lunghissimo periodo e investimenti vicini appunto al miliardo di euro. D'altra parte vorrei aggiungere un'ultima cosa: questo è anche il primo progetto europeo che porta in orbita tra l'altro 7 satelliti universitari, c'è l'Università di Bologna, ma ci sono università di tutta Europa. Vuol dire favorire l'accesso della ricerca europea, permettere di fare nello spazio quel tipo di ricerca che fino a poco tempo fa sarebbe stato pensabile fare solo in laboratorio. Tu hai seguito decine di lanci, c'è un qualche gesto scaramantico, un augurio particolare che si fa per dare il buon viaggio a un razzo? Temo di no, nel senso che in un mondo complesso, come dire, alta tecnologia, molto ingegnere, una scaramanzia a livello imbarazzante, quindi sono tutti molto abbottonati fino a quando vedono circa 90 minuti dopo il lancio, ricordiamoci, perché l'accensione dei motori è solo una prima fase in cui tutto è andato bene. Quindi se, come speriamo, lunedì alle 11 ci sarà lo zero del conto alla rovescia, poi intorno a mezzogiorno e 30 si saprà se tutto è andato davvero per il meglio. E noi ci saremo. Grazie Gigi, ciao, buon sabato. Grazie a te, un saluto agli ascoltatori. Una di quelle storie che ci piace scovare e raccontare qui all'altra Europa. Siamo a Bristol e parliamo del Bristol Pound. Sì, perché la cittadina inglese ha deciso di coniare una propria moneta. Un'operazione che non è assolutamente una provocazione, ma sotto ha ben altre motivazioni. C'è anche un'italiana dietro all'operazione, si chiama Milena Romano ed è qua con noi. Ciao Milena. Ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, ma sì, minuti a sufficienza per raccontare cosa sta succedendo a Bristol. Partiamo però da te. Cosa fai lì e come mai che c'è un'italiana dietro a questa strana azione? C'è un'italiana perché, per i tanti motivi per i quali ci sono italiani per il mondo in questo momento economico particolare, e ho avuto la possibilità di entrare a far parte di questa squadra come Business Engagement Manager, quindi mi occupo appunto di andare tra la gente, andare tra le attività commerciali e cercare di convincerli a utilizzare questo Bristol Pound. Ok, e che cos'è? Ce lo puoi descrivere? Certo, il Bristol Pound verrà lanciato il prossimo 21 maggio ed è una moneta locale che ha il ruolo di affiancare, non di sostituire la sterlina ovviamente. È una moneta locale che viene introdotta per far sì che le attività commerciali locali indipendenti possano continuare ad esistere e non vengano soppiantate completamente dalle grandi catene, ad esempio come Tesco, famosissima qui in Inghilterra. Quindi nasce per favorire insomma il commercio dei piccoli negozi? Esattamente, per i piccoli commercianti, i fornitori, le attività locali indipendenti, sì. Ecco, ma qual è il vantaggio? Perché con un Bristol Pound il piccolo negozio dovrebbe vendere invece con la sterlina no? Dunque, il vantaggio principalmente è quello di incentivare il commercio locale, è quello di incentivare un senso civico e comune che a Bristol è fortissimo, molto più forte ad esempio che in altre città inglesi e soprattutto molto più forte che a Londra, quindi un sistema per evitare che le sterline guadagnate con il proprio stipendio tornino indietro a Londra e alle grandi catene. Ok, ma ed è una moneta che avrà valore legale? Esattamente, ogni Bristol Pound ha lo stesso valore di una sterlina. Ma è questa cosa un po' sovversiva come è stata presa o comunque non viene osteggiata? In maniera molto positiva, il Bristol Pound non è il primo esperimento inglese, è il quarto bensì. La grande sfida sta nel fatto che Bristol è una città più grande, fa 660.000 abitanti, e mentre invece è stato utilizzato fino ad ora in realtà più piccole. Ma la risposta è stata molto positiva, continua a essere molto positiva e ho avuto proprio notizia in questa settimana che sia Plymouth che Manchester, che sono Manchester sì, sicuramente più grande di Bristol, hanno intenzione di avere la loro moneta locale. E, saranno sia banconote che monete, e con quale effigie verrà? Banconote che saranno in libera circolazione. E poi un sistema innovativo di pagamento tramite SMS, e ovviamente poi i pagamenti online come qualsiasi banca. Ma ci sarà stampata la regina? Quale effigie sarà? No, abbiamo appena lanciato un concorso e sarà a Bristol, sarà la città e saranno i suoi cittadini a decidere cosa ci sarà sulle banconote. Il 9 marzo questa giuria di personaggi molto importanti di Bristol deciderà quali saranno i design a vincere questa possibilità di stare su questa moneta. Perfetto, vi seguiremo Milena quando uscirà la moneta per capire appunto la reazione. Grazie mille. Bristolpound.org per tutte le informazioni. Un grazie a voi come sempre che siete stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina e Viola Frifa che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza insieme a Peter Bescapè alla parte tecnica, Alessandra De Luca è la voce dei post-it. Vi ricordo che sabato prossimo prossimo saremo in onda dalla BIT 2012, Radio 24 è radio ufficiale, noi saremo là per parlare di turismo in Europa. Tutte le info sul sito di Radio 24. Ancora ciao, ancora grazie da Federico Taddia, buon sabato.